Radio 24 presenta Il sabato del villaggio. Liberi consigli per il fine settimana. Le 15 in punto, buongiorno a tutti, ci siamo con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale, questa la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, i nostri liberi consigli per il fine settimana. E nella terza ora, dalle 17 alle 18, come sempre, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellato, per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Io vi tengo compagnia, lo dico sempre, ma anche voi teneteci compagnia. Ci sono due strumenti rapidissimi per contattarci: l'SMS 349-238-6666, il mio account di Twitter @MartaCagnola, l'hashtag sempre per chiusa qui Twitter. Il sabato il villaggio è lungo, lunghissimo, quindi usiamo le iniziali, cancelletto ISDV. Ma scopriamo insieme i temi della prima ora che passeremo insieme. Due personaggi notissimi al sabato del villaggio, tra poco i consigli di Marco Bianchi e, beh, per lei basta la parola, Luciana Littizzetto. Ovviamente le tecnologie con Enrico Pagliarini, questa volta parliamo di garanzia. Tanto tanto cinema con tutte le novità nel weekend, ma subito andiamo a Expo. Fratelli d'Italia. È stato sicuramente uno dei momenti più emozionanti, anche più commoventi ieri dell'inaugurazione di questo Expo. Giornata, quella di ieri, funestata da tante cose brutte, ma oggi è fortunatamente un altro giorno. Chissà come sta andando Expo, io la invidio un po' perché io non ci sono ancora stata, non sono ancora stata a vedere cosa c'è, sono molto molto curiosa. Ci colleghiamo subito con la nostra Laura Bettini, ciao Laura! Ciao Marta, reduce dai trionfi di Ro Fiera, Laura Bettini. ormai cosa hai fatto anche tu, un tuo piccolo padiglione? Hai messo Ma una canadese? Pensando, potrei attrezzare qualcosina, sì, però devo dire che ce ne sono tanti così confortevoli. Adesso io sono uscita ora con il collega Donelli, che conosci bene. Ah, dopo ci collegheremo anche lui, so. Ci collegheremo siamo anche con Gigi. Padiglione dell'Oman, dove abbiamo mangiato. Cosa? Abbiamo pranzato con nomi di piatti, nomi sconosciuti, per me non potrei mai ripetere, però tutto perfettamente halal, servito quindi con bibite analcoliche, insomma stiamo in un paese musulmano, quindi le regole sono queste. Però buono, ci sono varie possibilità di combinare i menù, insomma, se abbiamo notato, si va da una spesa di 6 euro per il solo antipasto a 35 se vogliamo proprio fare il percorso completo di tutto quello che Mi piace. Quindi finora cosa hai provato, Laura? Io ho provato tanti tipi di riso con verdure, con pesce, con poi una poltiglia di cui non so, era buona, sai quelle cose che riconosci la spezia, dici io questa l'ho già mangiata ma come si chiama? Mm-hmm. Non lo so, però era molto buona. E le bevande però erano curiosamente di una zona qui vicina, insomma, di Castelletto Ticino, un'azienda che è specializzata in succhi di frutta e così, e quindi è stata prescelta per così servire. È la globalizzazione, va bene, anche questo, esatto. C'è tanta gente oggi? C'è tanta gente, sì, c'è tanta gente. Allora stamattina il commissario unico Sala diceva che la stima delle 200.000 visitatori di ieri non è credibile, non sa neanche da dove sia uscita, perché loro non riescono a fare un conto sul numero dei biglietti che sono stati venduti per ieri, perché c'erano quelli, ma c'erano anche tutti gli accrediti, c'erano gli ospiti, c'era un sacco di gente, per cui contare precisamente le presenze era impossibile. Allora, comunque sono sicuramente più persone di quelle che ho visto ieri, penso anche per merito del sole, perché è una giornata climatica. Sì, fisicamente molto più accogliente, più piacevole. Poi si possono provare anche tutte le attrazioni. Adesso il Brasile ha un fantastico padiglione dove c'è un'enorme rete da pesca. Dove ho visto dei video, quindi è bellissimo andarci anche con i bambini. Ci porterai le tue bimbe? È pieno, i bambini appena entrano, perché proprio all'ingresso questo padiglione, appena entrano l'occhio, io ho notato, dei bambini va subito, tac, cade sul padiglione del Brasile e scattano tutti verso di là, ma anche bambinoni, arriviamo fino ai 20 anni secondo me, corrono direttamente. Tu l'hai provato? Al padiglione del Brasile ancora non ho potuto provare, mi avete fatto trottare troppo, non posso presentarmi col fiatone al GR. No, infatti. Laura, ci sono file per entrare? Nei padiglioni? Biglietterie no. Ah no, i padiglioni, cominciamo da fuori. Biglietterie no. Controlli per la sicurezza sì, perché ovviamente ci vuole un po' di tempo, è come l'aeroporto, bisogna togliere le cose dagli zaini, bisogna togliere i vestiti, le cinture, tutte queste cose qua, quindi ci vuole un po' di tempo. Poi per i padiglioni dipende dal padiglione, se è più o meno attraente, ovviamente anche dagli orari. Ora, visto tra i più gettonati ovviamente c'è il padiglione Italia, perché gli italiani devono subito andare a criticare e quindi prima cosa vanno lì, fanno la coda e poi escono e dicono che non sono contenti, però l'hanno fatta tutta. È un bel padiglione, anche questo io l'ho visto, va rifinito, ma lo dicono sia l'architetto Molè, che l'ha progettato, quindi è una parte della struttura, sia Marco Balic, che ho incontrato ieri proprio nel percorso della mostra che è interna a padiglione Italia, lui è il direttore artistico, diciamo, e lui stesso mi ha ammesso che era distrutto fino alle 5 del mattino, era stato lì a mettere a posto quello che poteva mettere a posto, ma che i lavori dovevano continuare, insomma, il padiglione Italia sarà più bello tra un giorno o due sicuramente. Beh sì, però dai, insomma, dobbiamo andare avanti fino a ottobre, uno o due giorni sono pochi. Sono delle soluzioni veramente veramente belle, alcune trovate, non voglio anticiparle troppe, ma queste camere a specchi dove si entra, sembra di essere dentro al lago di Como con tutti i suoni, tutte è proprio come starci dentro, è veramente bello, è impressionante, uno entra e non se la può immaginare in questa sala, pensa di trovare il solito quadretto un po' scamuffo, invece no, trova un panorama fantastico. Adesso io, Cristian e Pietro, che è in regia, lasciamo qua la radio, piantiamo la radio e veniamo. No, non si può, perché altrimenti verremo a fare un giro. Mettete un po' di musica. Mettiamo un po' di musica e veniamo a Expo. Non vedo l'ora di venire a vedere un po' di cose. Laura, mi raccomando, tu continua a mangiare nei vari ristoranti, così poi ci consigli il migliore. Vabbè. Grazie a Laura Bettini, che è ormai vive a Expo per Radio 24. Grazie. Ma Laura, ci sono posti peggiori, devo dire, poi ognuno ne penserà quello che vuole di Expo, però è bello da vedere. Bello, sono molto contenta. Grazie Laura, a presto. A voi, a presto. Adesso invece rimaniamo in tema Expo, però ci trasferiamo in centro a Milano, andiamo al Castello Sforzesco. Claudia Vanni, ciao Claudia. Ciao Marta, io qua non posso passeggiare con le prelibatezze come faceva la collega Laura. Però posso godere di un bel sole, del magnifico scenario di Castello Sforzesco, nel particolare siamo nel Portico dell'Elefante, e non so se riuscite a sentire in sottofondo una maestria di suoni per mano di 9 ragazzi che sono di fronte a dei pianoforti artistici e stanno facendo delle esibizioni molto suggestive, raccogliendo successo. Sentite, non so se riuscite a sentire l'applauso che sta partendo proprio adesso. Sentiamo l'applauso, sentiamo. Claudia, tu sei alla presentazione delle iniziative di Expo in città, perché tutta la città di Milano ovviamente avrà tantissimi eventi fino a ottobre. Tu mi hai detto una cifra impressionante. Sì, la cifra impressionante è 23.000 eventi in 6 mesi, un ordine più giornaliero, più quotidiano, 100 eventi al giorno, quindi sono veramente tantissimi. Ecco, infatti io volevo chiedere a Claudia, ma raccontaci un po' degli eventi, effettivamente così è un po' difficile, però mi hai detto che ci sarà il modo per orientarsi, hanno presentato un'app. Esatto, un'app che aiuterà a orientarsi in tutti gli eventi, concerti, mostre, iniziative, sarà facile scaricarla direttamente dal sito Expo in città, oppure andando in uno dei centri Apple o Android, è possibile appunto scaricare l'app sul proprio smartphone e da lì selezionare il calendario per genere e per data. Ci sarà poi l'opzione aggiuntiva della geolocalizzazione. Ah, quindi se tu sei in giro per Milano sai, esatto, che è un evento da una parte o dall'altra. Claudia, ti chiedo solo se hai già guardato, se hai già curiosato cosa tu farai, a che evento non mancherai. Allora, già a partire dalla giornata di domani, così diamo subito qualche spunto utile, ci sarà in centro, proprio qua a Castello Sforzesco, l'evento della Via Lattea, cioè il mercato delle 70 cascine del territorio lombardo, milanese, quindi sarà possibile ritornare un po' a contatto con la natura al centro di questa Expo, e quindi sarà possibile girare, fare delle piccole degustazioni, attività per bambini ovviamente, e poi invece fino al 13 maggio, curiosando un po' e sbirciando sul calendario che si può trovare distribuito proprio qua all'interno del castello, ci sono delle performance che prendono il nome di Focus Rivoluzionari, e dati i fatti di ieri torna ancora più forte questa performance. Saranno di vari temi, tratteranno dalla rivoluzione in Egitto, ma così come quella di Woodstock, storica, e sarà possibile quindi dibattere di quello che è realmente la rivoluzione, di come la si può fare nel terzo millennio e nel modo giusto, e nel modo costruttivo, di quali sono le strade migliori per raggiungere poi i cambiamenti e i successi. Grazie a Claudia Vanni di essere stata con noi. Mi raccomando, continua a indagare perché vogliamo sapere tutti gli eventi di Expo in città. Grazie Claudia Vanni. Sono qui per voi. Grazie Claudia. Allora, ieri lo abbiamo sentito l'inno di Mameli. Ci sono due cose che mi fanno commuovere nella vita: quando cantano gli alpini e quando cantano i bambini. Quindi ieri per me è stato veramente fonte di lacrime. Soprattutto, lo hanno notato tutti, l'inno di Mameli, che ieri è stato concluso così. E a questo punto la commozione per tutti. C'era in particolare Agnese Renzi con lacrime copiose a dirigere questo coro straordinario, i Piccoli Cantori di Milano, un coro storico. C'è il maestro Laura Marcora. Buongiorno Laura. Buongiorno a tutti. Che meraviglia. Laura, ti chiedo subito se è vero che tu sei nipote della leggendaria Ninico Molli. Io sono nipote di... Sì, è vero. Sono nipote di Ninico Molli, un coro che si tramanda da generazione in generazione. Per i milanesi è proprio un monumento. È un pezzo del... Sì. Della storia di Milano. Perché esistiamo da 50 anni. Sì. Laura, com'è andata questa scelta di cambiare l'inno di Mameli, che ci ha lasciato stupiti e ha aumentato la commozione in maniera esponenziale? Allora, io volevo chiarire una cosa. Innanzitutto, durante l'alza bandiera, in realtà l'inno originale è stato eseguito. Certo. Solo in un secondo tempo è partita un'elaborazione molto originale del maestro Stefano Barzan con testo di Michela Casazza, con la famosa sostituzione di Siamo pronti alla vita, un'idea di Michela. All'inizio abbiamo eseguito l'inno di Mameli proprio nella sua versione originale, ma abbiamo voluto dare un'attenzione particolare ai bambini, cioè nel momento in cui i grandi dicono siamo pronti alla morte, non so se ci avete fatto caso, i bambini fanno un coro a bocca chiusa. Da una parte per sottolineare la drammaticità di questa frase storica dove è morta tantissima gente, dall'altra è stato un po' un modo per dire un adulto può dare la vita per la patria, un padre può dare la vita per un figlio, un bambino no. E quindi è stata un'attenzione, una delicatezza che Stefano Barzano ha voluto avere. Subito dopo è partita una elaborazione dell'inno, dove appunto è avvenuta la famosa sostituzione. Io so che proprio dal CD. So che ovviamente il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio erano a conoscenza di questa. Sì, perché è stato chiesto un permesso, che non mi sono occupata io personalmente di questa cosa, però so che certo abbiamo dovuto chiedere un permesso per eseguirla. Certo. Anche questa frase è una frase che è nata dall'esigenza di far dire ai bambini una frase che li rappresentasse in qualche modo. Cioè, San Pronti alla vita è un finale assolutamente poi in linea col messaggio che Expo vuole diffondere. Perché Expo, energia per la vita, diamo cibo a tutti, salviamo la vita. E poi devo dire, i piccoli cantori di Milano, davvero bravi, bravi, bravi, quindi devo farti i complimenti. Siamo perché tanto e siamo stati molto felici, ma ci siamo anche divertiti moltissimo. E come è stata proprio una bella esperienza. Ti chiedo solo un'ultima cosa, perché dobbiamo dare la linea al traffico, ma questa è la mia curiosità. Come è stato metterli d'accordo con gli alpini? Hanno trovato dei nonni e degli zii? Esatto, e io volevo innanzitutto nominarli perché citarli e salutarli, e sono dunque il coro Brianza di Missaglia, coro Sant'Ilario di Rovereto, coro Il Rifugio di Seregno. Tra altre cose, con loro si è creata subito una sinergia fantastica. E che meraviglia, che meraviglia. Laura, davvero grazie tantissime per essere stata con noi e buon lavoro ai piccoli cantori che sono davvero molto molto molto bravi. Grazie, grazie, grazie mille. Noi ci risentiamo tra poco perché dobbiamo dare la linea agli aggiornamenti del traffico e ancora tra pochissimo col sabato del villaggio. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta il sabato del villaggio. E ci ritroviamo ancora con la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, con il nostro tutorial per un bel weekend, per sapere tutto, anche dei grandi fenomeni, per incontrare anche dei personaggi che ci piacciono particolarmente. Parliamo con un personaggio molto amato dai ragazzi, ce lo presenta in questa clip tratta da una trasmissione TV, il nostro amico Federico Taddia. Ciao ragazzi, ci siamo. È arrivato il momento che stavo aspettando. La merenda. Finalmente posso ingozzarmi di dolci e pizzette. Sempre che il nostro esperto Marco Bianchi non abbia nulla in contrario. Ciao Marco, che ne dici? Ciao Fede, diciamo che un trancio di pizza di tanto in tanto va benissimo. Ecco, non mangiare solo quella però. Certo che no, è l'ora di merenda, quindi lo dice la parola stessa. È il momento delle merendine. Spesso la merenda si fa fuori casa, al parchetto con gli amici. Ecco, però la merendina fa veramente la differenza. Dobbiamo saperla scegliere. Saper scegliere quindi quelle più sane, quelle che fanno bene alla nostra salute. E rimaniamo in tema di Expo e rimaniamo in tema di alimentazione con un super esperto, lo abbiamo sentito, lo sentiamo a volte anche su Radio 24, sappiamo che lui sa sempre come ci si nutre per stare bene. Buongiorno a Marco Bianchi, buongiorno. Buongiorno, buon pomeriggio. Allora Marco, intanto, visto che stiamo parlando di Expo, tu sei ambassador di Expo 2015. Cosa significa? Cosa devi fare per essere ambasciatore? Allora, sono stato nominato ambassador proprio perché, insomma, in qualche modo potessi parlare di buona e sana alimentazione, di prevenzione, quindi a tavola. È una grande vetrina mondiale, mette veramente l'Italia davanti al mondo intero, si parla di cibo, si parla di sostenibilità e quindi Marco Bianchi, insomma, parlerà di quello che è il cibo come prevenzione. Eh sì, perché tu sei uno scienziato e quindi ci consigli come mangiare meglio per stare bene, però io posso dire che io ho mangiato quello che ho cucinato, sei anche un bravissimo cuoco, quindi non è che mangiare bene vuol dire stare bene e mangiare cose cattive. No. Poi molto spesso appunto si confondono le cose, ma la mia cucina, devo essere proprio obiettivo, è anche molto molto golosa e spesso anche calorica, perché non è che non metto a nessuno a digiuno, quindi alla fin fine si mangia e come. Io ho imparato a fare la tua torta a cioccopere, buonissima, quella è leggendaria. Marco, in questi giorni ti abbiamo visto, ieri ti abbiamo visto su Dea Kids con Big Bang Speciale Alimentazione, tra l'altro col nostro amico Federico Taddia, ma in questi giorni torna su Dea Kids in pillole, canale 601 di Sky. Che cosa hai spiegato ai ragazzi? Perché tu hai questo talento anche di saper parlare con bambini e ragazzi. Per fortuna, direi, guarda, perché c'è bisogno veramente di comunicare e convincere in qualche modo i giovani, i ragazzi, i bambini, perché si è proprio scoperto anche dal punto di vista scientifico quanto sia importante mangiare bene, avere una consapevolezza alimentare fin da piccoli, perché è lì che si costruiscono, diciamo, le memorie delle nostre cellule, e quindi è importantissimo fare una giusta scelta alimentare. E con speciale alimentazione, con Big Bang, Federico e Emanuela mi hanno permesso appunto di viaggiare in questo mondo fantastico, in cui appunto cercare in qualche modo di spiegare ai ragazzi quale sia la giusta colazione, il giusto pranzo, la giusta cena, insomma cercare di comprendere realmente che alcuni tipi di alimenti oggigiorno riescono realmente a prendersi cura di noi, altri purtroppo in grandi quantità invece peggiorano la nostra salute. Marco, ti svelo un segreto: il sabato mangiamo a pranzo io, Christian, che mi dà una mano a confezionare la trasmissione, e anche Claudia, che è anche lei nella squadra degli assistenti di Radio 24, mangiamo in mensa. A quest'ora abbiamo già un po' fame. Cosa ci consigli come merenda ideale per ragazzi e per adulti? Noi ci mettiamo tra i ragazzi, ovviamente. Assolutamente, dovete mettervi tra i ragazzi. ma sicuramente, guarda, si può partire dal, se ci sono le possibilità, anche da un buonissimo frullato. Il periodo ce lo permette, quindi della frutta mista, frullata, con magari all'interno del latte magari vegetale, un latte di mandorlo, perché no, qualche cucchiaio anche di uno yogurt vegetale, uno yogurt greco, e quella potrebbe essere una merenda ideale proprio. Il problema è che è ovvio che se siamo in giro o non abbiamo le possibilità non possiamo frullare nulla. Non neanche cosa... che noi siamo in redazione non possiamo, non siamo allora, attrezzati. Va bene, allora per voi giovani potete sicuramente però consumare un po' di cioccolata fondente piuttosto della frutta secca. Io ricordo sempre che sono alimenti che vanno consumati quotidianamente, perché realmente riusciamo a fare una prevenzione, ad esempio cardiovascolare, consumando un 30 grammi di frutta secca al giorno, cioè una manciata. E quello è un ottimo snack. È un ottimo snack che spezza fame, contiene dei grassi buoni e tante proteine. Quindi meglio di così, diciamo, ci permette di finire la giornata in maniera molto, molto egregia. Cioccolata fondente altrettanto, riesce a prevenire diverse malattie, riesce a tenerci anche di buon umore, quindi perché non portarla appunto un po' più spesso, purché appunto di buona qualità e fondente. Marco, l'importante è volersi bene. Io così ricordo anche il titolo del tuo libro, che è Io mi voglio bene, ma anche muoversi. Io voglio dare a tutti l'appuntamento per Milano Food and Wellness, anche l'hashtag Io mi muovo, che sarà il 6 e 7 giugno a Milano. Perfetto, vi aspetto tutti quanti, è una 48 ore bellissima in cui ci muoveremo insieme, si cucinerà insieme, ma non soltanto con me ma anche con tanti altri professionisti che porteranno la loro professionalità, appunto il loro sapere in termini appunto culinari, quindi sarà veramente molto molto un incontro molto ricco, perché ci saranno anche appuntamenti in cui poter ascoltare, in cui poter fare dei dibattiti, quindi in cui imparare, insomma sicuramente ne usciremo tutti quanti più soddisfatti e più completi. Allora ricordati che sabato 6 giugno noi dal Sabato del Villaggio ci colleghiamo con te sicuramente. Marco, grazie per essere stato con noi, grazie a Marco Bianchi, ambassador di Expo. A presto, ciao Marco. Ciao. E da uno scienziato appassionato di cucina a una donna irresistibile capace di farci ridere sempre. Enrico, mi sembra di essere una bambina che fa le richieste al nonno. Mi fai un altro rumore, dai! Preparate gli ombrelli, eh? Abbiamo incontrata qualche giorno fa la presentazione dei live di Italia's Got Talent in onda su Sky 1, ma in questo periodo è anche impegnata nella fiction di Rai 1 Fuori Classe, che la scorsa domenica è riuscita con il 17,40% a battere Il Segreto. E poi, come sempre, a che tempo che fa? Ovviamente stiamo parlando di Luciana Littizzetto, che, vi dicevo, abbiamo incontrato alla Italia's Got Talent Arena di Milano e non potevamo non chiederle subito le differenze tra i due uomini che la accompagnano nelle sue avventure televisive, Fabio Fazio e Claudio Bisio. Dunque, il passaggio da Bisio a Fazio, sono due persone diverse, con delle modalità diverse. Claudio è un casinista pazzesco, Fabio è più regolare, però Fabio ha delle spigolature, delle acutezze che insomma Bisio, che è tutto scoperto, non ha. Quindi sono due persone molto interessanti, se gli copri la faccia. Ma Fabio ti ha guardato in queste puntate? Non mi guarda perché va a dormire a quell'ora lì, lui alle 9 ha già il pigiama, già la giacca da camera con il taschino con la pipa disegnata sopra. È un periodo in cui non è facile ridere, come si fa a far ridere in questo periodo, in questi giorni? La realtà, l'attualità è molto forte, molto potente, anche in questi giorni, cioè è difficile ridere, però purtroppo il nostro mestiere è quello, cioè purtroppo è per fortuna, quindi noi dobbiamo distrarre l'attenzione, dobbiamo fare i salti in banchi e quindi dobbiamo cercare quello che nel casino fa ridere o ci dà almeno un segnale di positività e di speranza. Sia la fiction Fuori Classe sia Italia's Got Talent hanno fatto presa sul pubblico dei ragazzi, che magari seguono un po' meno Che Tempo Che Fa. Sì, il Che Tempo Che Fa è un pubblico molto trasversale, che poi cambia dall'inizio alla fine. Però appunto sì, il pubblico dei bambini forse a quell'ora lì c'è un po' meno. Invece questa trasmissione è vista tantissimo dai bambini, dai ragazzi, anche fuori classe. Quindi andiamo a pigliare questo pubblico che sembrava non guardasse più la televisione, si rivolgesse soltanto al web. Invece con questi due programmi siamo riusciti a catturare quella parte lì, tra l'altro con due cose buone, insomma mi sembrano due programmi interessanti. Anche perché hai detto mandiamo un messaggio figo, cioè il talento, provarci, la perseveranza. Sì, perché secondo me si respira proprio un'aria di essere perduti, insomma, che non ci sono più possibilità, non ci sono più chance, è tutto uno schifo, è tutta una merda. Non è così, è che però noi siamo anche responsabili, noi che usiamo tutti questi mezzi di comunicazione, siamo responsabili anche della emotività e del messaggio che mandiamo. Certo, è un momento complicato, ma ce ne sono stati altri altrettanto complicati. Quindi dobbiamo cercare il buono dove c'è, cioè quando ti arriva il figlio a casa che ha preso 4, se tu gli dici sei un cretino, non ce la farai mai, cioè, quando ha preso 4 gli dici vabbè, però dai, adesso mettiti a studiare perché sei capace, sei bravo, ce la puoi fare. Se c'è un po' di questo atteggiamento, forse magari le cose migliorano. Sì. Non è buonismo, è proprio desiderio di buono, di positività. Ho voglia di qualcosa di buono, diceva una pubblicità qualche anno fa. Un consiglio, cosa c'è di buono adesso in televisione? Secondo me i giovani tantissimo. Cioè, i ragazzi hanno un casino voglia di fare, di lavorare, si sbattono. Cioè, questa cosa è, non hanno voluto i contratti, non ma non è vero, probabilmente non è andata esattamente così, forse magari erano contratti troppo brevi o semplicemente non potevano fare diverse cose. Io penso che ci sia una disponibilità altissima da parte dei giovani. Io conosco ragazzi che sono laureati, che hanno fatto master, che magari fanno dei lavori, cioè fanno ancora il babysitter o si abbassano a fare delle cose che magari noi della nostra generazione non abbiamo fatto. Quindi non è vero, vanno a studiare all'estero, si sbattono un casino, non è affatto così. Che Italia hai visto passare davanti ai tuoi occhi? Perché non sono solo artisti ma anche persone che vivono in questo paese. Ma ho visto moltissime persone che ci credono parecchio nelle cose che fanno e questo è quello che dicevo prima, mi sembra un bel messaggio in un momento così devastato, non solo italiano ma anche a livello mondiale, dove non sappiamo più quali sono i confini, dove non ci sono punti fermi, dove tutto in movimento e anche la terra si muove, no? Il mare è pieno di gente che arriva, cioè avere davanti a noi un'immagine di gente che scommette, che ci prova, che si esibisce, fa delle cose fighe, buone, ci aiuta anche ad avere, secondo me, un po' di speranza. Noi abbiamo anche una responsabilità, no? Certo, non siamo il Papa, però i messaggi buoni sono importantissimi in questo momento, perché sennò non andiamo più da nessuna parte. Gente che ci prova e gente che ci riprova, ci siamo commossi tutti guardando Gianfranco D'Angelo, ad esempio. È bello avere delle seconde possibilità. Sì, ma lui forse secondo me non era neanche la seconda possibilità, era l'idea di dire: oh, io ci sono ancora, e tra l'altro lui fa teatro, per cui è anche molto bravo, e il fatto che ridessero i ragazzi giovani in platea mi ha fatto molto piacere, perché noi abbiamo un po' perso quello che avevano i nostri nonni, cioè di tenere a cuore i vecchi, no? E, perché ci sembrano fuori moda, anche questa corsa che abbiamo tutti a non invecchiare mai, a essere sempre giovani, performanti, ci tiriamo, sbutuliamo. Invece il vecchio, l'anziano ha bisogno di essere coccolato e ascoltato, e questo è stato un momento molto bello e spero che si sia divertito anche lui. Il sabato del villaggio. Eccoci qua, ci ritroviamo con la seconda parte della prima ora del sabato pomeriggio di Radio 24, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, libri e tecnologie. Non so come ci collegheremo con lui, ma intanto entriamo in atmosfera. Questa Heart of Glass dei Blondie in realtà parlava di persone molto sensibili, di cuori più che altro che si spezzano, ma Heart of Glass, a me si è spezzato il cuore recentemente, qualche mese fa, perché mi si è rotto il vetro del tablet. Altro che cuore spezzato, vetro spezzato davvero. Buongiorno Enrico Pagliarini. Buongiorno. Ah, ma vedi, quindi ci siamo riusciti a collegare con te, incredibile, incredibile. Non so dove devo parlare, se al telefono o al microfono. Allora, mi dicono al microfono, devi parlare al microfono, ma invece mi stai sentendo per telefono. Stiamo facendo gli esperimenti, Sì, sì. Sì, perché io sento anche un po' di ritorno, al te non so bene cosa stia succedendo, ma va tutto bene. Come sempre, non so dove sei, caro Enrico, rimaniamo nel mistero di dove non ti trovi. Non lo so nemmeno io, mi hanno paracadutato. Sì, secondo me sei in qualche campagna remota, vabbè, ma tutto ciò va benissimo. Caro Enrico, perché io sto parlando di questo dramma che mi è capitato? Perché sono sicura che è capitato anche a molti ascoltatori. A un certo punto tu hai il tuo tablet o il tuo smartphone che ti è costato qualche soldino e il vetro fa crash. Credo che sia il problema tecnologico di hardware perlomeno più frequente. Sì, sì. Allora, effettivamente è uno dei problemi più frequenti che capitano a smartphone e tablet, e non è un problema di garanzia, perché difficilmente il display si spacca mentre noi stiamo navigando così per incanto, quindi è proprio un problema dovuto al nostro uso. Quindi certo, noi rompiamo. Guarda, a me si è rotto durante, l'ho trovato rotto la mattina, ho pensato a un caso di sonnambulismo, cioè secondo me o l'ho buttato per terra o non lo so. caso di sonnambulismo, probabilmente l'ho trovato rotto la mattina. Allora, dico una cosa sul, prima di arrivare al display rotto che noi rompiamo, dico una cosa sulla garanzia. Allora, dobbiamo ricordarci una cosa molto importante, che esiste una garanzia europea, una garanzia di legge, che prevede che per 2 anni lo strumento, adesso in questo caso stiamo parlando di tablet e smartphone, ma non è detto, insomma, questo vale per tutti i prodotti che noi acquistiamo, non solo i prodotti elettronici. La garanzia è di 2 anni, e se vogliamo essere pignoli, la garanzia è di 2 anni più 2 mesi, perché la legge prevede che il difetto deve essere comunicato entro 2 mesi. Quindi, se noi, diciamo, all'ultimo giorno dei 2 anni in cui scade la garanzia, ci accorgiamo di un difetto, abbiamo 2 mesi di tempo per comunicarlo. E a chi dobbiamo comunicarlo? Non all'azienda che ci ha venduto il prodotto, cioè non all'azienda che ha prodotto questo prodotto, ma al rivenditore. Quindi questa è una parola importante da ricordarsi: la garanzia deve essere garantita, scusate il gioco di parole, dal rivenditore, sono affari suoi. Quindi questo è molto importante. Venendo invece al problema del display, che effettivamente è un grande problema, molti ci scrivono, mi si è rotto il display, che cosa devo fare? Allora, la cosa è molto semplice, ci sono 2 strade, però la prima la sconsigliamo, è il fai da te. Esistono soprattutto siti internet che ci vendono dei kit per sostituire il display sia dello smartphone che del tablet. Però il fai da te è un po' complicato, bisogna essere esperti, la procedura non è semplicissima, non è nemmeno complicatissima, però bisogna avere un po' di manualità, la procedura ci non sono è, molti tutorial in rete, ad esempio su YouTube ci sono moltissimi video. Sì. Però se uno non è esperto e soprattutto non ha tempo da perdere, insomma, da sconsigliare. Invece ci sono oramai, in questi anni di diffusione degli smartphone e dei tablet, si sono diffusi servizi di assistenza che sono molto spesso gli stessi che fanno assistenza al mondo dei computer. Ci sono anche dei siti che sono specializzati nella sostituzione del display, e quindi sostituiscono in toto lo schermo e il vetro del nostro terminale. A prezzi che possono variare da, giusto per avere un'idea, dipende dal modello, dipende anche dal tipo di rottura, ma grosso modo dai 100, 120, 130 euro per uno smartphone, fino a 150, 200 euro per alcuni tipi di tablet e alcuni tipi di smartphone. Beh, quindi la domanda, dipende, come si diceva un tempo, sorge spontanea, vale la pena? Ecco, allora, se noi abbiamo comprato un tablet o uno smartphone da 5, 6, 700 euro, beh, probabilmente vale la pena. Se abbiamo invece uno smartphone da 150 euro, beh, probabilmente ci conviene buttarlo e comprarne uno nuovo. Va detto una cosa, va aggiunto un particolare, che se noi... Se il display ha una rottura che non è profonda, probabilmente possiamo utilizzare lo smartphone o il tablet anche con il vetro rotto, perché il sistema comunque funziona. Se la rottura è un po' più profonda, non va, e quindi ce ne accorgiamo facilmente, perché non risponde al tatto, non risponde al nostro dito, e quindi dobbiamo sostituirlo tutto oppure buttarlo via. Guarda, questo. Il mio funzionava ancora, però non si vedeva più niente, perché avevo proprio dei tagli in mezzo, ma l'avevi visto anche tu, te lo ricordi. Enrico, altri tipi di problemi che si possono verificare? Ma allora, ci sono dei tablet come ad esempio l'iPad, che ha un tasto centrale, e uno dei problemi potrebbe essere il malfunzionamento del tasto. Anche in questi casi ci sono dei servizi che sono spesso gli stessi servizi che ci sostituiscono il display, e possiamo fare sostituire il tasto del tablet. Direi che la maggior parte dei guasti che accadono, delle rotture, perché quasi sempre nel 99% dei casi sono rotture che noi provochiamo da un utilizzo non consono, o perché ci cade o perché smanettiamo in modo non opportuno, direi che queste sono le 2 rotture principali, difficilmente, anche perché non ci sono molte altre parti. Ci sono, è vero, tasti, ci sono magari delle prese per varie cose che noi possiamo attaccare ai tablet o agli smartphone, però sostanzialmente queste sono le 2 guasti e le 2 rotture che accadono di più. Enrico, passiamo già all'app della settimana oppure hai ancora qualcosa da raccontarci su questo argomento? Invece di un'app, questa settimana, come ho scritto questa mattina nei nostri dialoghi mattutini per decidere di che cosa parlare, di cosa discutere, no, pensavo, visto che stiamo parlando di display, e ormai i display sono touch, quindi noi li tocchiamo, allora ci sono oramai dei pennini che noi possiamo acquistare se noi vogliamo non utilizzare le dita, o perché non ci piace usare le dita, oppure perché vogliamo disegnare o vogliamo scrivere come scriviamo sulla carta. Ci sono anche molte applicazioni che ci permettono di scrivere non con le dita, o comunque con le dita è un po' più complicato scimmiottare la penna, la matita. Allora, ci sono dei pennini che fanno solo questo, che quindi ci permettono di utilizzare il tablet come fosse un foglio di carta. Oppure cito il caso della Faber-Castell, che è una nota marca di matite, che ha prodotto una matita che funziona come le matite normali sulla carta, ma che ha un cappuccio che serve sia come cappuccio per la matita, ma anche per poter scrivere sul tablet o anche sullo smartphone, però probabilmente pochi scriveranno con una matita sullo smartphone. Quindi è una matita double phase che può essere utilizzata a seconda del desiderio nostro. Ci sono quelli che disegnano sulla carta, ci sono oramai molti che disegnano sul tablet, con tutti i vantaggi del caso, nel senso che poi il disegno lo posso spedire, lo posso inviare, lo posso modificare, insomma posso utilizzarlo per una grafica di un sito internet, eccetera eccetera. È una buona idea. Costi molto bassi, nel senso che i pennini che fanno solo il pennino per il tablet costano 1, 2, 3 euro, cose del genere. Questa matita costa 7, 8 euro la coppia. Quindi stiamo parlando Due matite, quindi la particolarità è se qualcuno va in giro, anzi ci sono anche le custodie particolarmente eleganti che da una parte hanno l'alloggio per il tablet e dall'altra il blocco, così è anche la matita double face. Io personalmente non so scrivere sul tablet con la matita, quella col pennino di gomma, per una ragione molto semplice: sono mancina e quindi copro quello che scrivo e non sono assolutamente in grado. Non so se tu, Enrico, ti trovi bene a scrivere con il pennino. Io per nulla, sono completamente imbranata. Diciamo, ci hanno abituato oramai a usare le tastiere, quindi difficilmente si scrive con la matita, però si può disegnare, e chiaramente disegnare con la tastiera non si può, con altri strumenti è molto difficile, così come con il mouse sul computer è molto complicato. Il tablet è un sostituto di alcune tavolette che si erano diffuse nel mondo della grafica, nel mondo dei computer, nell'era dei computer. Con i tablet si possono fare dei bellissimi disegni, ci sono delle applicazioni che ci permettono di utilizzare colori, di utilizzare anche vari tipi di matite, quindi cambiare anche la dimensione del tratto, e chiaramente uno strumento come la matita può sostituire il dito e la matita virtuale che c'è sul tablet. Cito un altro accessorio, chiamiamolo così, che probabilmente non è adatto per la stagione, più adatto per una stagione che abbiamo appena passato, invernale, però c'è il guanto che ci permette di utilizzare il tablet anche con i guanti. Sapete che il tablet funziona solo con il tocco del dito, per tutta una ragione che non stiamo a spiegare. Ci sono dei guanti che hanno delle protuberanze, diciamo, sopra come dei gommini. Io l'anno scorso li ho regalati a tutti a Natale, avevano dei gommini, sì. Enrico, bene. Allora io ti terrei ancora un paio di minuti, perché abbiamo l'appuntamento con la viabilità, anche perché io poi dopo la viabilità voglio farti sentire una canzone che ho trovato, come al solito. Ci ritroviamo tra qualche istante. Monge, crocchette e patè per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta Il sabato del villaggio. Io mi diverto sempre ogni sabato, questo divertimento un po' scemo, quando Enrico, appunto l'abbiamo detto, ci scriviamo un po' di mail per decidere insieme i temi di cui parlare al Sabato del Villaggio. Mi sfida sempre a trovare delle canzoni a tema, questa volta avrebbe parlato di garanzia, era un po' difficile, però ho trovato in una puntata di Scrubs il coro a cappella, torniamo a parlare di cori dopo i piccoli cantori di cui abbiamo parlato nel primo blocco del nostro Sabato del Villaggio. Cosa avevano mai cantato durante una puntata di Scrubs? Eccolo qua. Garanzia, dove sei e che fai? Garanzia, garanzia, io ti avrò e lo sai. Sarai mia, ti avrò, garanzia sei mia. Beh, io da stamattina che canto Garanzia sei mia con la musica che era la sigla di un notissimo telefilm, Charles in Charge, che quelli della nostra età conoscono bene, Enrico. In effetti per una volta abbiamo trovato una canzone italiana. È vero, perché spesso te le trovo straniere. Ed è, immagino anche raro trovare una canzone sulla garanzia. No, ma infatti non c'ho, prima hai visto, mi sono un po' arrampicata sugli specchi con Heart of Glass, il vetro dei telefoni che si rompe. Quindi ricordiamoci, la garanzia è una faccenda del rivenditore, quindi chi ci vende il prodotto, lui è responsabile della garanzia, non l'azienda che produce lo smartphone o il tablet che ci... Poi il rivenditore se la rivederà poi con la, se la vedrà con l'azienda. Quindi se io ho scaricato il podcast di 2024 e non mi è piaciuto, vengo a lamentarmi con te. Sì, però essendo gratis non c'è garanzia. Enrico, visto che abbiamo ancora un minuto, raccontaci un po' cosa hai fatto in questa puntata del 2024, come ascoltarla e riascoltarla. Allora, questa settimana abbiamo parlato di 4G e di una nuova tecnologia che sta arrivando, che arriverà nel prossimo autunno. Poi abbiamo parlato di un servizio che mette in... che compara le auto del car sharing, e poi abbiamo fatto una lunga chiacchierata con il capo di Google Italia. Ah, molto interessante. Bello, bello. Io me la sono persa però ieri sera perché ero alla Scala. La posso riascoltare? Senti, certo, come... oggi quando vai a casa sì, allunghi il viaggio e ascolti tutta la puntata di 2024 in podcast. Straordinario, che io scarico sul sito radio24.it e io mi abbono alla trasmissione, come potete fare anche con il Sabato del Villaggio e con RadioTube. Sono stata brava, ho saputo tutto? Bravissima. Allora, ci Enrico, sentiamo la prossima settimana. Noi ci sentiamo la prossima settimana. Come sempre, non so se sarai in studio con noi, se ti avranno paracadutato come questa volta in un posto un po' strano del quale non sappiamo nulla. Grazie Enrico Pagliarini per essere stato grazie con noi. Adesso, beh, come sempre sono quasi le 15:50, quindi i nostri ascoltatori, gli ascoltatori del Sabato del Villaggio, sanno che questa è l'ora esatta nella quale noi ci occupiamo di cinema. Un orso e un albero. Un uomo nudo. Un soldato verde. Un bambino. E lui l'eletto. Hai portato il bambino? Sei matto! E noi che cosa siamo? È arrivato il momento della nostra vendetta. Dove vai? A impedire che tua madre distrugga la civiltà occidentale. Un tempo si diceva tremate, tremate, le streghe sono tornate, mi par di capire che questo weekend tornino al cinema, è così Franco? Buongiorno Franco D'Assisti. Ciao, ciao Marta, sì è assolutamente così, proprio con il titolo Le streghe sono tornate torna anche un regista sempre visionario, grottesco, pieno di humor nero come Alex de la Iglesia, regista spagnolo, cinquantenne, specializzato in questi film che mischiano la risata con atmosfere appunto che sono molto gotiche, sono molto molto noir. Qui si comincia con una rapina che è una delle più belle che ho visto al cinema negli ultimi anni, i primi 10 minuti fulminanti, la rapina di 4 personaggi conciati come delle comparse durante una festa di quelle in cui si va tutti in maschera in mezzo alla piazza, e poi arriva questa rapina al compro oro, scopriamo che questo rapinatore è un povero padre separato che per mantenere il figlio deve rapinare il compro oro. Se ne va, se ne Life scappa con 25.000 fedi nuziali in un sacco, comincia un inseguimento incredibile, loro finiscono in una foresta braccati dalla polizia e lì trovano le streghe che vorrebbero un po' vendicarsi. C'è chiaramente tutto l'universo filmico di Alex de la Iglesia, ma anche il suo racconto del rapporto uomo-donna, di questo uomo vessato dalla moglie, che appunto troverà il contrappasso quando saranno le streghe quasi a dover decidere il loro destino. Un film molto divertente, anche molto, con molto pathos, con molto ritmo, e quindi io ve lo consiglio davvero. Le streghe sono tornate. C'è chi al cinema ama le grandi star, si faranno attrarre dai nomi di Ritorno al Marigold Hotel. Vale la pena, Franco? Guarda, secondo me vale la pena, Marta, perché chi ha amato il primo film, Marigold Hotel, chiaramente amerà anche questo, che come dicevamo è un sequel, ma sembra quasi il secondo tempo del primo film proprio, cioè si riprende esattamente da lì, non è che li ritroviamo anni dopo, si riprende da lì e si va avanti. Chi non ha visto il primo film apprezzerà queste atmosfere indiane, l'eleganza straordinaria di questi attori, di un cast tutto british, con Bill Nighy, con Judi Dench, con Maggie Smith e anche con l'addizione, con David Strathern, ma anche con l'addizione di Richard Gere, che viene a fare l'ispettore in incognito di valutazione di hotel, perché questa volta la storia del protagonista di Sonny, che è interpretato, lo ricordo, da Dev Patel, che fu il protagonista di The Millionaire, il ragazzino ormai cresciuto di The Millionaire, è quella di un secondo hotel da aprire per essere più moderni, per essere più cool, come dicono quelli che se ne intendono, ma forse lasciando un pezzettino di cuore in quelle mura decadenti del Marigold Hotel, che però sono tanto affascinanti e che hanno fatto decidere a questo cast di vivere lì. Ecco, è un film di quelli che ti fa stare tranquillo con te stesso, con i colori, quasi con i profumi, potremmo dire, di un'India che è sempre, magari stereotipata in questo senso, ma molto affascinante. Mi viene da dire, meno tranquilli invece col Bambino numero 44, ma gli appassionati di thriller vadano a vederlo oppure no? Guarda, sì, direi di sì, appassionati di thriller, appassionati di grandi storie poliziesche, vere, tra l'altro, perché il film è ispirato al bestseller di Tom Smith, Bambino 44, edito in Italia da Sperling, e racconta una storia vera, quella del mostro di Rostov. Siamo nella Unione Sovietica degli anni 50, il Bambino 44 è la 44esima vittima di una incredibile serie di omicidi seriali, e un poliziotto cerca di andare sulle tracce di questo assassino, ostacolato per assurdo dal potere sovietico, che vuole quasi negare l'idea che esista un serial killer in quel paradiso. Ecco, chiaramente troverà dei personaggi a cui attaccarsi, che la pensano come lui, il protagonista, per portare a casa il risultato. Tom Hardy, Gary Oldman, Noomi Rapace nel cast, è davvero, come film, diciamo, d'azione, di pathos, è davvero il film della settimana. Mi pare di capire che niente di tutto questo sia adatto ai bambini. Chi invece ha bimbi, ragazzi, insomma, cosa si può andare al cinema a vedere con loro? Guarda, Marta, se i bambini sono davvero piccoli si può andare a vedere I Sette Nani, anche perché è una rivisitazione tedesca, tra l'altro, in animazione, dei Sette Nani di Biancaneve, che però hanno vita a sé stante. Questa volta Biancaneve è giusto una invitata a una grande festa insieme alla Bella Addormentata, Cappuccetto Rosso, eccetera, ma I Sette Nani, che hanno anche nomi diversi, tra l'altro, sono i veri protagonisti. Una storia tenera, dolce, che mischia un po' alcuni elementi, alcuni ingredienti di tante favole classiche, però veramente per un pubblico molto piccolo, perché, diciamo, dopo le scuole elementari è un film che magari può non soddisfare i palati anche dei ragazzini. Franco, allora l'appuntamento con te dopo le 18 con La Rosa Purpurea. Sì, dopo le 18 La Rosa Purpurea, subito dopo il GR. Vi ricordo, tra l'altro, saranno con noi Nicola Nocella, l'attore italiano che somiglia più di tutti a John Belushi, per intenderci, premiato con il Nastro d'Argento per il ruolo del figlio più piccolo nel film di Pupi Avati, e sarà con noi anche Maurizio Lombardi, un altro attore che sarà il narratore del Rocky Horror Show al Teatro della Luna dal 5 di maggio. Quindi, insomma, restate con noi alla Rosa Purpurea. Grazie a Franco D'Assisti e anche al prossimo Sabato del Villaggio. Ciao, Marta. Ma resta restate con noi anche al Sabato del Villaggio, perché tra poco diamo la linea al GR24 delle 16. C'è in redazione La Vedo dal Vetro Anna Rita D'Ambrosio, che sta già stampando il copione del giornale radio. La Vedo, quindi siamo quasi pronti per l'edizione dell'informazione. Cosa succederà nella seconda ora del Sabato del Villaggio? Parleremo con un pasticcere famosissimo, non vi anticipo ancora il nome, vi dirò tra poco chi è, ma anche lui è Expo Ambassador. Parleremo di cioccolato, ve lo dico, visto che ne abbiamo citato con Marco Bianchi, parleremo di cioccolato. Tra l'altro un ascoltatore ci ha scritto poco fa, Antonio da Vicenza, voleva sapere perché Marco Bianchi dice che si può mangiare il cioccolato fondente e non la frutta secca, non è meglio la frutta secca? No, in realtà diceva tutte e due, un po' dell'uno, un po' dell'altro, perché fanno bene per ragioni diverse, un pochino dell'uno e dell'altro ogni giorno. Poi parleremo ovviamente di libri, un bestseller, il bestseller del momento, quello di Alessandro Baricco, e poi un libro molto particolare. Parleremo di consumi e poi di una campagna molto molto importante. Io vi confesso che adesso c'è una brevissima pausa e mi interesserò di un argomento che mi appassiona particolarmente. Qual è l'argomento che mi appassiona particolarmente? Ma ovviamente il nome che verrà scelto per il Royal Baby, per la bimba di Kate e William, che è nata questa mattina. Insomma, si aprono già le scommesse. Pare che si consolidi l'opzione Alice davanti a Charlotte, però crescono anche le chance attribuite ai miei preferiti, Elizabeth e Victoria. Chissà se ne parleremo anche nel GR24. Vedo con la coda dell'occhio, vedo dal vetro Anna Rita D'Ambrosio che sta entrando in studio, quindi la linea va al GR e noi ci ritroviamo tra poco. Il Sabato del Villaggio. Rieccoci insieme con il sabato pomeriggio di Radio 24, il Sabato del Villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale. Questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, insomma, ve lo dico sempre, i nostri liberi consigli per il fine settimana. Nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio, con tutta l'attualità della rete e dalla rete. Ma cosa succederà nella seconda ora del Sabato del Villaggio? Torneremo a Expo anche con un altro ambassador, un uomo dolce come il cioccolato, possiamo dire così, Ernst Knamm. I libri, questa volta parliamo dell'ennesimo bestseller di Alessandro Baricco e di un bizzarro fenomeno. Arriva in Italia un volume di enorme successo in Germania, un libro che parla di intestino. I risarcimenti per i voli cancellati, ma anche il modo di guadagnare facendo la spesa nell'appuntamento con le nuove tendenze. Ma prima, un'attrice splendida e una campagna preziosa. Poi la poltrona reclinabile l'ho presa. Va bene, sì. Quanto hai speso? Ma lo devi dire. Dimmelo, scusa, facciamo sì, a metà. Va bene, poi. Cioè, poi te lo dico. Sì. Ho parlato anche con l'infermiera e abbiamo fissato gli orari. Erano quelli che avevamo pensato noi? Sì, sì, le vanno bene. Amen. Hai visto Vittorio? Sì, ci siamo salutati prima. Ah, ieri in ospedale mi sono fatta spiegare bene come dobbiamo fare con la bombola dell'ossigeno. Abbastanza semplice. Sì? Sì, sì. Ce la possiamo fare? Sì. Vittorio mi ha detto delle cose tremende su di me. E come osa? Mi ha detto delle cose terribili sui miei rapporti con gli altri. Poi io ci ho pensato, erano così esatte, così giuste. Anche su come io tratto le persone. Ha ragione. Però è strano, ma perché nessuno me l'ha mai detta? Me l'hai detta? Come mai non l'ho capita? Vabbè. Grazie a Expo stiamo parlando tanto di cibo sano, di cibo buono, ma vogliamo anche ricordare il cibo che purtroppo manca. Hashtag sfido la fame, la nuova campagna di Oxfam. Avete riconosciuto probabilmente il film Mia madre. Certo, avete sentito Nanni Moretti, ma anche la protagonista Margherita Bui, che è proprio la testimonial di questa campagna. Sono 805 milioni di persone, donne per la maggior parte, che il mondo più fortunato non deve abbandonare. Il 98% di chi fa ancora i conti con una cronica carenza di cibo vive di agricoltura e allevamento nei paesi in via di sviluppo. Se avessero stessi diritti e stesse opportunità degli uomini, le donne, si potrebbero sfamare 150 milioni di persone in più e ridurre la fame del 19%. Dicevamo Margherita Bui, testimonial della campagna di Oxfam Sfido la fame, l'abbiamo raggiunta telefonicamente. Margherita ci ha spiegato tutto, a partire dalle ragioni del suo impegno con Oxfam. Perché ho conosciuto Oxfam in un'occasione così, non la conoscevo, l'ho conosciuta così attraverso gli spettacoli, le cose che loro fanno per farsi conoscere. Ho conosciuto quindi le persone che ci lavorano, ho capito i progetti che fanno, e in specifico questa campagna è una campagna molto concreta. E mi piace di Oxfam che fanno, sono dei progetti concreti che portano avanti, che forse non sanno tutti, perché Oxfam è un'organizzazione mondiale, rilanciando ogni anno una campagna importante per la raccolta fondi. Mi sembrava giusto, visto che me l'hanno chiesto, visto che io li ho trovati, sono andata a trovarli, ho capito chi sono, di affiancarli. Margherita, una cosa importante che fa Oxfam è sostenere le donne, perché nelle donne c'è spesso la risposta e la soluzione ai problemi. Sì, cioè proprio un loro credo, è quello su cui si fonda Oxfam, cioè dare alle donne la possibilità di emanciparsi, soprattutto in quei posti dove non c'è, dove c'è povertà e dove le donne sono delle più o meno sono il 2/3 delle agricoltrici, degli agricoltori più poveri al mondo. Però loro sostengono che donne siano in grado di dare sostentamento alla famiglia nel momento in cui vengono aiutate, perché sono loro sicuramente in grado, più capaci rispetto agli uomini, di organizzare la famiglia. Io sono assolutamente d'accordo, perché noi lo facciamo, anche se siamo dei paesi, viviamo in paesi ricchi, in realtà insomma anche noi siamo secondo me la base delle famiglie, siamo noi che ci occupiamo in realtà di tutto, e quindi mi piace molto aiutare le donne, perché conosco, perché mi ci ritrovo, perché capisco anche se ci sono altri problemi che hanno, però mi ci riconosco. 45509 l'SMS solidale, la chiamata da telefono fisso, sì. Hashtag sfido la fame. Basta poco per fare molto? Basta pochissimo, perché appunto basta dare sicuramente con 2 euro con l'SMS, che sono proprio molto indicativi, perché praticamente doni dei semi necessari proprio al sostentamento di tutta una famiglia per una stagione intera, cioè un sacchetto di semi, è una cosa veramente concreta, cioè non è una cosa così campata in aria. Poi se uno vuole essere più generoso può dare anche 5 euro e 10 euro però da un telefono fisso, e queste famiglie riceveranno addirittura delle galline, addirittura degli alberi diciamo in grado di vincere la siccità, insomma proprio una qualcosa di veramente incredibile. Siccome io ho visto quello che sono riusciti a fare in posti, ovviamente in Africa, dappertutto, in America Latina, con questo poco sono riusciti a dare i mezzi necessari appunto a delle famiglie, a delle donne, di coltivare la terra, di ricoltivare la terra anche da dove la terra era diventata impossibile, secca, e quindi sono molto molto speranzosa, diciamo, che questa campagna serva veramente anche quest'anno a dare un po' di vita laddove la vita non c'è. She was just sleeping somewhere. Now she's gone back. go walking and the years have all melted away. Yeah, I remember you like yesterday. And the summer's here, so say goodbye to rain. And baby's coming back to me. Yeah, baby's coming back to me. Yeah, baby's coming back to me. Vi ripeto i numeri, i modi per donare alla campagna Sfido la fame di Oxfam Italia. SMS o solidale o chiamata da telefono fisso fino al 10 maggio al 45509. Con un contributo di 2 euro sarà possibile fornire a una donna i semi necessari che le permetteranno di garantire cibo ai suoi figli per un'intera stagione. 5 euro, 10 piante resistenti alla siccità per diversificare i raccolti e sconfiggere la malnutrizione infantile. 10 euro sarà possibile garantire a una donna un allevamento familiare di galline per la produzione di uova. Anche la Lega Serie A sosterrà Oxfam per la 35esima giornata della Serie A di sabato 9 e domenica 10. Le squadre scenderanno in campo proprio a sostegno di Oxfam Italia. Infine, è possibile donare tramite carta di credito su oxfamitalia.org con la causale Sfido la fame e poi sui social network per sostenere la campagna. L'hashtag è appunto Sfido la fame. Noi ci risentiamo tra poco ancora con il sabato del villaggio, prima però dobbiamo aggiornarci come sempre sulla situazione di strade e autostrade. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta il sabato del villaggio. E ora al sabato del villaggio è il momento dei libri. Chissà cosa ci ha portato oggi la nostra Alessandra Tedesco. Queste atmosfere orientali, un po' cinematografiche. Seta, era seta? Lo chiediamo subito alla nostra Alessandra Tedesco. Ciao Alessandra. E questo me lo devi dire tu, perché questo era il film. Sai che io sono, sì, come sì, dire, sì, sì, era seta, sono era per la seta. Parte dei libri, tu per la parte dei film, quindi mettiamoci d'accordo. Aspetta che tiro fuori la mia sfera di cristallo e cerco di prevedere il futuro e soprattutto il tema di cui ci parlerai. Sarà mica Alessandro Baricco? Ma va, perché è uno dei libri di cui si sta parlando tantissimo nelle ultime settimane, ovviamente. Ricopre uno dei primi posti della classifica dei libri italiani più venduti. Si intitola La sposa giovane ed è l'ultimo romanzo di Alessandro Baricco, pubblicato da Feltrinelli. Se ne sta parlando molto di questo romanzo, ma lui non ne parla, perché la curiosità di questo romanzo di Baricco è che lui ha dichiarato proprio ufficialmente, convocando in realtà alcuni blogger alla scuola Holden, la scuola di scrittura, sì, creativa, sì, storytelling a Torino, dicendo: sappiate che io non rilascerò interviste e non ho alcuna intenzione di parlare di questo libro e probabilmente anche dei miei prossimi libri. Beh, Baricco però è sempre stato uno che chiacchierava, insomma, è stato anche in televisione, ha fatto il come conduttore. No? Che sia una trovata pubblicitaria? Mi si nota di più se sta in disparte. E devo dire che c'è anche una caratteristica dei libri di Baricco, che ormai lui non fa più da tempo pubblicare nella quarta di copertina, o meglio nella bandella, né chi è lui né quali sono i suoi libri. Cioè, non, tu compri un libro di Baricco e non sai quali sono i precedenti e così via. Vanità. Secondo te? Secondo lo trovi un po' solo di vanità all'interno, insomma, però non si dice Alessandro Baricco, eccetera. Poi eccetera, la foto eccetera. Col ricciolo, niente. No, e non c'è neanche la trama. Beh, però questo devo dirti, effettivamente uno dice: tu devi leggere questo libro perché l'ho scritto io, non in base alla trama. Io sono d'accordo su questo, sì, perché le trame mi danno fastidio, leggo sempre gli incipit. Allora, però diciamo un po' di che cosa. Beh, però, per chi volesse sapere. saperlo, ecco. Allora, è ambientato ai primi del Novecento, c'è appunto una sposa giovane, una ragazza che deve sposarsi e che arriva in questa casa, diciamo, di persone borghesi, facoltose, ma lo sposo non c'è. Lo sposo non c'è perché lavora in Inghilterra nell'azienda tessile di famiglia. C'è una madre, un padre, vengono sempre chiamati così, la madre, il padre, lo zio, la sposa giovane, la figlia, il figlio, cioè non hanno un nome. Non hanno nomi propri. Questi, non hanno nomi propri questi personaggi. Il romanzo, ti dirò Marta, mi ha lasciato un po' perplessa. Io dico che sempre il mondo letterario dei lettori, anzi, si divide fra i baricco fan e i baricco non fan. Io non faccio parte dei baricco fan, quindi lo quindi dichiaro. Non sei di quelli non di quella testo. Setta lì? No. Mm-hmm. Diciamo che mi sono piaciuti più i suoi romanzi poco baricchiani e meno quelli molto baricchiani. Questo è molto baricchiano, cioè una scrittura vellutata, un po' complicata, cambia il lio narrante, è un romanzo onirico, certe volte non si capisce bene dove voglio andare a parare. Capisco che i fan di Baricco, come dire, si siano appassionati. Io, diciamo, sospendo il giudizio. Sai, quando dici voglio riguardarlo? Ti stavo per chiedere che faccio, lo leggo, non lo leggo, me lo dici tra un po', me lo dici tra un po'. Sì, è come quando guardi un film e dici non ho capito bene se mi piace, voglio rivederlo per esprimere, sì, come, per esprimere un giudizio. Come quando i critici vanno alle anteprime e dicono questo film mi è salito, cioè che lo vedi e dopo un po'... Vedi, guarda, giusto per farti capire insomma come è scritto, una delle frasi che, mm-hmm. che si vede più spesso anche sulle riviste, sui giornali che stanno parlando di questo romanzo. Sono la sposa giovane, dissi, voi, annotò modesto. Poi guardò attorno stupito perché non era ragionevole che fossi arrivata da sola e invece non c'era nessuno a perdita d'occhio. Mi hanno lasciata in fondo al viale, dissi. Avevo voglia di contare in pace i miei passi e appoggiai la valigia a terra. Avevo, come era stato convenuto, 18 anni. Qui è narrato in prima persona, sembra dalla sposa giovane, ma poi ta-tan, cambia il punto di vista. Un libro nel quale non ci si può mai distrarre, no. Non può essere quel libro che leggi due paginette prima di andare a dormire, no. Comunque ci vuole la sposa giovane, Alessandro Baricco. E poi hai davanti a te un altro libro con un titolo e anche un disegnino che mi sta molto incuriosendo. Guarda, questo è uno dei casi editoriali degli ultimi tempi. Allora, in Germania ha venduto 1 milione di copie. Voi direte, ah, sarà un romanzo, uno scrittore famoso? No, lei ha 25 anni, si tratta di un piccolo saggio manuale e si intitola L'intestino felice. L'ha scritto la tedesca Julia Enders, pubblicato in Italia da Sonzogno. In Germania, ti dicevo, ha avuto un successo strepitoso. In Italia hanno già tirato 25.000 copie, che ti assicuro è un numero notevole di questi tempi, ed è stato già, credo sia la terza o quarta ristampa nel giro veramente di pochi giorni. È un libro, un saggio, chiamiamolo così, però scritto in maniera molto accattivante, molto anche divertente e accessibile, sul nostro intestino. Ah, infatti questo fumettino che vediamo è un omino con il suo intestino primo piano. Li ha disegnati tra l'altro sua sorella. Mi verrebbe da dire, dimmi come la fai e ti dirò chi sei. Ah, perché io me lo sono letto bene questo libro, mi è piaciuto, devo dire. L'intestino felice è un libro da leggere, si imparano un sacco di cose. Poi ci sono i disegnini anche per chi non riuscissi a capire bene. Ti spiega come sarebbe opportuno andare in bagno, quanto spesso, come funziona l'intestino. Mi è piaciuta molto la parte di come l'intestino influenza il cervello, perché noi siamo abituati a pensare che il cervello influenza l'intestino, no? Dice, se sei nervoso hai la colite spastica, e invece anche l'intestino viene definito spesso dai medici anche il secondo cervello, è fatto anche fisicamente un po' allo stesso modo, se ci pensi. Sto pensando a quelli che leggono in bagno, potrebbero potrebbe essere perfetto. Consigliato a chi? Consigliato a chi? Potremmo dire a chi vuole saperne di più, a chi fa letture in bagno. C'è tutto qua, anche dai microbi a come tenere la pulizia dell'intestino. Insomma, ditemi come la fate e vi dirò chi siete. E se poi ha avuto così tanto successo, vuol dire che è un bel libro. Allora, ci siamo liberati dell'oltre le 50 sfumature, perché tu hai detto teniamo la rubrica finché le 50 sfumature sono in classifica. Mi sa che adesso basta. La mia gioia, sapete, non ho mai amato le sfumature di grigio, rosso, nero. Io direi finché non esce un nuovo capitolo del film, non si parla più del libro. Però, o finché però non esce quel libro che deve scrivere il marito della scrittrice. Ah, che da, questa detto, non la so, mi manca. Sì, che lui vuole fare il sequel e lo scrive lui. Benissimo, molto tutto bene, in famiglia. Dai, molto una nuova bene. Rubrica, inauguriamo una nuova rubrica. Di cosa parleremo mai? Visto che insomma ci siamo, ormai c'è l'Expo. C'è, sì, questo pomeriggio non ne stiamo parlando proprio mai per di niente, Expo, guarda, però io ti porto un po' di libri, sì, non che hanno tanto a che fare con l'Expo, ce ne sono tantissimo, la nutrizione va bene, però in questo caso ho scelto dei libri che ti dicono che cosa puoi fare a Milano. Venite a Milano per l'Expo nei prossimi 6 mesi e allora vi consiglio, se avete dei figli, 101 cose da fare a Milano con il tuo bambino, scritto da Giovanna Cansi e Daniela Pagani, pubblicato da Newton Compton Editori. È l'edizione rivista aggiornata di 101 cose da fare a Milano col tuo bambino, che era uscito qualche anno fa. Mi è piaciuto perché, per esempio, chi viene da fuori, ma anche chi abita a Milano, scopre delle cose meravigliose per i bambini. Che per poi magari vanno bene anche per i grandi. Che vanno bene per i grandi. I musei a misura di bambino. Vabbè, a parte il MUBA, che a Milano, insomma, c'è il vero museo per i bambini, dove quest'anno ci saranno in questi 6 mesi un sacco di laboratori ed eventi legati ovviamente all'Expo e al cibo. Per esempio all'Hangar Bicocca, che spieghiamo per i non milanesi, è uno spazio molto bello dove ci sono spesso installazioni, mostre d'arte contemporanea, soprattutto ci sono degli spazi a misura di bambino, dei laboratori, e poi c'è uno spazio dove mollarli se voi volete andare a vedere volete andare a vedervi una mostra. E questa cosa si trova appunto in 101 cose da fare a Milano con il tuo bambino. Poi per esempio ho scoperto che il famoso dialogo nel buio dell'Istituto dei Ciechi, si va lì, si fa tutto un percorso al buio assoluto, si può fare anche per i bambini. E poi ci sono un sacco di indirizzi utili anche per esempio per fare il brunch tipico milanese, certo, no? E i ristoranti, chiamiamoli bambini baby friendly, non so come definire, quelli che, dove i bambini hanno i loro spazi e diciamo non scocciano troppo gli adulti. Ah, perfetto, quindi anche gli adulti senza bambini possono sapere che non devono andare, insomma va bene per tutti. Allora, quello che possono fare i bimbi a Milano in questi mesi in 101 cose da fare a Milano con il tuo bambino, invece per i grandi? Allora, per i grandi invece ho scelto Qua giochiamo in casa, perché c'è il mensile del gruppo del Sole 24 Ore che si intitola, che si chiama Il, si intitola, ormai sono abituata ai romanzi, capito? È troppo libraia. Sono troppo letteraria dentro, e nel numero di maggio, che è nella storia di copertina, perché Milan le... Perché Milan è un gran Milan. Lei è barese, dobbiamo ecco dirlo. Alessandra è barese, quindi adesso le diamo. Io stavo cercando. No, però insomma, erano i 100 modi, i 100 motivi per amare Milano. Io ne ho tanti, però me ne sono segnata alcuni qui. Perché sul tetto del Duomo puoi giocare a Rocco e i suoi fratelli. Ah, vero. Vedi la citazione cinematografica. Perché i turisti non conoscono i giardini della Guastalla, bellissimi. Vero, e non diciamoglielo, ma Cristian Rocca che dirigi il... Ma non glielo dovevi dire, vabbè, ormai io sanno. Ci faccio i picnic con i miei nipotini. Sì. Poi, altre motivazioni. Perché la Biblioteca Ambrosiana conserva il Codice Atlantico. Qui andiamo. E poi questa curiosità mi è piaciuta molto, perché se ti sposi a Palazzo Reale puoi entrare con la macchina in Piazza Duomo e parcheggiare lì davanti. È vero, non ci avevo mai fatto caso. Vedi, poi ci sono tanti motivi, ce ne sono 100, ci sono anche le foto, perché il Museo della Scienza, unico in Italia, custodisce una pietra lunare. Insomma, a Milano veramente, se venite per l'Expo... Ma anche non per l'Expo, perché ci siamo noi. Ma infatti uno dei 100 motivi è perché c'è la sede del Sole 24 Ore. Mi è piaciuto molto. Alessandra, a proposito di consigli, tra un consiglio e l'altro, anche il consiglio del cacciatore di libri? Il cacciatore di libri vi aspetta ogni sabato alle 6:30 del mattino per i mattinieri e alle 22 dopo il GR, per chi invece preferisce, come dire, la versione serale. Bellissimo, e al prossimo sabato del villaggio. Ciao Alessandra. Bacetti a tutti. Il sabato del villaggio. Mi stanno arrivando. arrivando dei messaggi al 349-238-6666 che vogliono sapere qualcosa di più su come donare per la campagna Sfido la Fame di Oxfam. Allora, Sergio da Milano, il 45509 può essere utilizzato via SMS dai cellulari TIM, Vodafone, Wind 3, Poste Mobile e Coop Voce. E poi quello per ogni SMS dona 2 euro e 2 euro per la chiamata da rete fissa Vodafone e TWT, 5-10 euro per le chiamate fatte allo stesso numero da rete fissa da Telecom Italia, Infostrada e Fastweb. Quindi si possono usare tutti questi modi, ma siccome mi rendo conto che effettivamente, detto alla radio, è un po' difficile segnarselo al volo, lascio a te Sergio da Milano, che mi hai scritto in particolare questo messaggio a proposito del 45509, lo voglio dire bene, di Oxfam, ma anche agli altri ascoltatori che hanno chiesto delucidazioni. Lascio appunto il nome del sito sfidolafame.it, è un mini sito, ma è sempre comunque valido anche il sito oxfamitalia.org. Adesso però, beh, insomma, il sabato del villaggio è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali. Certo, la tecnologia, la musica, la TV, il cinema, ma anche tutti i modi per spendere bene. Quindi andiamo a parlare insieme di consumi. Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre o un secondo. L'incanto sarà godersi un po' la strada, amore mio, comunque vada, fai le valigie, chiudi le luci di casa. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che non c'è niente di più vero di un miraggio, e per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. E dalla musica direi che torniamo a parlare di viaggi. Ci piace in questo periodo. Buongiorno Maria Luisa Pezzali. Buon pomeriggio Marta, un saluto a tutti. Ebbene sì, parliamo di viaggi, ma di viaggi e rimborsi. E poi anche di bugie sui viaggi. Bugie è bello, mi incuriosisce. Viaggi e rimborsi anche mi pare utile. Sempre dalla parte del consumatore ovviamente. Che ha sempre dei viaggiatori. Ragione. Assolutamente sì. Iniziamo Marta con un'app che permette in pratica di farsi rimborsare i voli aerei in ritardo, cancellati o in overbooking. Ti sarà capitato. E che rabbia. Esatto, per compensare la rabbia bisogna innanzitutto sapere che ci sono delle nuove norme europee che prevedono una possibilità molto più ampia rispetto ad un tempo per i rimborsi. E AirHelp, questo è il nome di questo sito e della relativa app, aiuta i passeggeri di tutto il mondo ad ottenere i rimborsi dovuti appunto dalle compagnie aeree. Rimborsi che, bisogna dirlo, spesso non vengono incassati dalle vittime, per così dire, dei ritardi. Ci sentiamo sempre così un po' in difetto e pensiamo sempre tanto nessuno mi rimborserà mai niente. Esatto, poi non si ha voglia di scaricare i moduli, sì, di inviarli, di seguire tutta la procedura, insomma, no, non mi vado a impelagare, insomma, non si fa. Infatti la cifra, come dire, sul tavolo è molto molto molto consistente. Adesso c'è questa app che fa tutto per noi, noi non costa niente. Lasciamo una percentuale del rimborso eventualmente ottenuto, ma se la pratica non va a buon fine non paghiamo niente. Mi piace molto. Poi se loro prendono una percentuale vuol dire che si danno da fare davvero. Esatto. Addirittura, e innanzitutto che il rimborso c'è, se c'è la percentuale, sì. Addirittura va a scandagliare, tra pochissimo spieghiamo come, la nostra casella di posta alla ricerca dei biglietti degli ultimi 3 anni per scovare il biglietto potenzialmente rimborsabile. Diabolica, incredibile. Mi piace. Non per niente non è molto amata dalle compagnie aeree, anzi la più odiata era il claim che ha usato inizialmente, la più odiata dalle compagnie aeree, però ci siamo fatti raccontare tutto da Danilo Campisi, che è responsabile per l'Italia di AirHelp. Solo nel caso in cui riusciamo a far ottenere il rimborso indietro, tratteniamo 25% di commissione, IVA inclusa. Nel caso in cui non riuscissimo ad ottenere il rimborso, rimarrà comunque completamente gratuito. E quando la compagnia aerea rifiuta di pagare e noi appunto facciamo una valutazione tramite i nostri database e riteniamo che la compagnia aerea invece doveva pagare, procediamo per via legale. Abbiamo legali in tutto il mondo, anche in Italia. e quindi poi procediamo per vie legali, e generalmente in più del 90% dei casi riusciamo ad ottenere il rimborso. Generalmente noi riusciamo a ottenere 450 euro di rimborso per passeggero, questo è un valore medio. Considerando che in un biglietto in media ci sono due passeggeri, si va a 900 euro di rimborso per passeggero, e la potenzialità è tantissima, perché considerando che ci sono milioni di voli tutti gli anni anche in Italia, generalmente noi abbiamo calcolato che il 2% di questi voli è eleggibile, quindi facendo una stima molto approssimativa di questi valori si va ad un mercato che arriva a 2 miliardi solo in Italia. Voi avete addirittura una funzione, un email searcher, che va appunto a cercare nelle email la caccia di biglietti potenzialmente rimborsabili. Così spieghiamo come funziona. All'inizio l'abbiamo chiamato Gmail Scanner perché scannerizzava la casella Gmail. Adesso abbiamo incluso Hotmail e altre caselle, l'obiettivo appunto è includerle tutte. E quindi funziona che generalmente i passeggeri non si ricordano di avere un volo in ritardo cancellato nella loro email. Quindi quello che fa questo programma è una scansione totale dell'email, quindi non scannerizza le email personali, ma solo scannerizza le parole chiave. E una volta che trova un volo che è stato cancellato o appunto, che ha avuto un ritardo, quindi un volo eleggibile, informa il passeggero, quindi il passeggero poi dovrà fare solo accetto di inviare il reclamo ad AirHelp. Una volta che accettano, riceviamo il reclamo, gestiamo tutto, quindi non dovrà fare nulla, si siede e si rilassa da 2 a 12 settimane, che è il tempo medio che ci vuole per ottenere il rimborso, e poi può ottenere sempre da 200 a 250 a 600 euro. Perché ricordiamolo, questa legge europea prevede che si possa andare indietro fino a 3 anni, è così? Sì, diciamo che questo dipende da paese a paese. In Inghilterra, se non sbaglio, è 6 anni, mentre una sentenza della Corte europea ha detto che nel caso dell'Italia è 3 anni, il che appunto allarga di tantissimo il mercato, perché se non riusciamo ad avere un mercato di circa 2 miliardi in un anno, andando indietro di 3 anni, ovviamente questo aumenta il potenziale tantissimo. Siete odiatissimi dalle compagnie aeree, ovviamente. Beh, in realtà inizialmente avevamo fatto il nostro logo e rifiutati dalle compagnie aeree. Questo è un po' cambiato circa un anno fa, quando grosse compagnie aeree internazionali hanno iniziato a contattarci e a chiederci di fare non degli accordi veri e propri formali, ma di collaborare, perché il fatto che noi comunque gestiamo tutto il reclamo internamente e loro poi comunque devono pagare, perché è una legge, vi conviene più collaborare, quindi non più chiudati alle compagnie aeree, oppure forse continuano ad odiarci però non ce lo dicono più. Beh, continuano a odiarci ma non ce lo dicono più, è davvero divertente. Luisa, però mi hai detto che mi avresti parlato anche di bugie. Esatto, le bugie? Bugie, perché vorrei chiudere, come dire, il capitolo viaggi in aereo con una curiosità. È una ricerca realizzata da lastminute.com, rivela, Marta, che un italiano su 6 bleffa sul proprio weekend, cioè inventa delle storie, dei viaggi da weekend per poterle condividere. Ma anche con le foto finte, magari sui social. Magari anche quello, sì. No, oppure comunque la chiacchiera, la macchinetta del caffè, è tutta, cioè, una storia, insomma. Sono stato a Cortina. Esatto. No, ti prego. E questa la dice lunga sull'ansia da condivisione. Però le bugie hanno le gambe corte, secondo me sono anche facilmente smascherabili. E tra l'altro nella classifica dei bugiardi europei, gli italiani, magra consolazione, sono battuti dai tedeschi, che sono no. I primi, sì. No. E dagli spagnoli. Ti prego, incredibile, i tedeschi che dicono le bugie. Beh, io non posso dire di andare da nessuna parte il sabato del villaggio, nemmeno perché tu, qua stiamo dove dobbiamo andare. Momento delle strategie anticrisi, allora vediamo se c'è in linea la nostra Cristina. Cristina Lazzati, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, eccoci qui con le strategie anticrisi. Di cosa ci parli oggi, Cristina? Guarda, oggi parliamo di come guadagnare i soldi spendendoli, che è una cosa bellissima. Che è il sogno di chiunque. Fantastico. Ma si può fare, bello. Si può fare, si chiama cashback e ovviamente non l'abbiamo inventata noi, ma l'hanno inventata gli americani. Però è appena nata un'app tutta italiana che si chiama Tfrutta, è stata inventata da Ubic, che è uno spin-off di Ubic Lab, che arriva dall'Università di Parma, per cui dietro c'è un pensiero, ci sono giovani ed è una bellissima iniziativa. Bene, con Tfrutta ti scarichi l'app, lo puoi fare sia su Android che su il mondo Apple, e quando compri dei prodotti che appaiono lì tutti i giorni, cambiano i prodotti delle varie marche molto ben specificati. Se compri quel giorno quel prodotto, fotografi lo scontrino e loro ci pensano a ridarti indietro un po' di soldini, ma sono soldini veri, non sono buoni sconto ulteriori o buoni fidelizzazione o bollini, no, sono proprio soldi che poi arrivano sia in forma di sul conto corrente bancario oppure su PayPal, quello che lo scegli come ti piace. Per cui ci sono una serie di prodotti come, non so, le grandi aziende Unilever, per cui parliamo di Algida, Dove, Mentadent, Volto, Corrio Mare, Nivea, eccetera, quindi prodotti di largo consumo che si possono comprare ovunque, cioè dal supermercato al discount. Dopodiché l'importante è avere lo scontrino, con l'app si fotografa lo scontrino viene registrato e ogni giorno si possono accumulare questi soldi. Per il momento è diffuso su Milano e provincia, ma poi si estenderà in tutto il territorio nazionale, quindi anche chi non è di Milano basta pazientare un pochino, ma dovrebbe arrivare anche lì. Ecco, sottolineiamolo Cristina, sono prodotti che si comprano nel supermercato, anche quello sotto casa, non stiamo parlando della spesa online. Assolutamente no, stiamo proprio parlando, ed è questa la novità di questa app, perché no, ci sono già dei siti di cashback in Italia che già sono attivi da tempo, ad esempio uno mi pare si chiami Buy On, che di fatto ti invitano a comprare online su Expedia, su Booking, eccetera eccetera, registrandosi, e lì funziona esattamente nello stesso modo, però devi fare lo shopping online. Qui si tratta proprio di prodotti del largo consumo che si possono comprare ovunque, dal supermercato, ripeto, al discount, al negozio sotto casa, perché quello che conta non è tanto l'insegna dove viene comprato, ma conta il fatto di aver comprato quel prodotto e avere lo scontrino di riferimento. Mi piace molto, moltissimo, vado a scaricare la app perché mi pare che sia una buona frontiera, insomma, qualcosa che secondo me è destinato a durare. Grazie a Cristina Lazzati di essere stata con noi, buon pomeriggio Cristina. Grazie a voi, buon pomeriggio. Ciao Cri, a presto. Luisa invece, Maria Luisa, con te l'appuntamento con Essere Avere domani. Essere Avere domani alle 15, non mancate assolutamente. Un saluto a tutti. E anche il prossimo Sabato del Villaggio insieme. Ciao Maria Luisa. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che non c'è niente di più vero di un miraggio, e per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Io adoro questo pezzo di Cesare Cremonini, me lo ascolterei, anzi me lo ascolto a ripetizione. Beh, buon viaggio, perché abbiamo parlato di tutti i rimborsi per quanto riguarda i voli che sono andati male anche nel passato, molto interessante, ma buon viaggio anche chi è in questo momento in macchina, che sta andando da qualche parte. Allora andiamo a sentire insieme com'è la situazione su strade e autostrade, e poi ci ritroviamo ancora tra poco con il Sabato del Villaggio. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta il Sabato del Villaggio. E abbiamo parlato tanto di cibo e tanto di Expo, ma non è mica finita, non solo perché Expo è appena cominciata, ma perché siamo ancora nel pieno, nel vivo del nostro Sabato del Villaggio. Abbiamo iniziato questo appuntamento con la diretta del sabato pomeriggio con Laura Bettini, che ci raccontava di essere appena andata a mangiare al padiglione dell'Oman con Gigi Donelli. E noi adesso invece siamo proprio con Gigi. Buongiorno Gigi. Allora, e qui siamo proprio nei dettagli. Certo, no? Ma io voglio sapere tutto. Ma certo, perfetto, ma ha detto che le è piaciuto molto, anche a te? Sì, assolutamente, anche perché alimentazione, come dire, molto sana, in questo caso riso, spezie, insomma, un ottimo punto di partenza. D'altra parte, come è ovvio, qui non è certo la scelta a mancare, e l'offerta in questo pomeriggio finalmente di sole. Sì, perché abbiamo visto le immagini dell'inaugurazione, bellissima, molto poetica, coinvolgente, ne parleremo tra poco anche a RadioTube. Certo, ieri, insomma, il clima a Milano non aiutava molto, e non parlo solo del clima purtroppo in altri quartieri della città, ma proprio certo. del clima atmosferico. Ci siamo divertiti un po' con Laura, le ho chiesto qualche consiglio dove quale padiglione era già il più divertente. A te cosa ha colpito finora, visto che immagino che tu stia girando in lungo e in largo, anche se ce ne vuole di tempo per vedere tutto, eh? Sì, ce ne vuole, ma guarda, ce ne sono già parecchi nel mio elenco. Per esempio, qui non molto distante da dove mi trovo c'è un bellissimo padiglione dell'Angola, in cui appunto sia per le volumetrie sia per le sonorità, insomma, ci si può davvero perdere un po' in un racconto di un'Africa nuova, perché ovviamente è l'Africa declinata anche al successo petrolifero. Molto bello anche il grande padiglione americano, con le sue, col suo orto verticale. Oddio, in realtà il piano basso abbiamo esplorato anche un'esposizione non particolarmente significativa. I piani alti più belli, bellissima la terrazza con appunto lo spazio per gli orti verticali, che sono un tema forte. Ce ne sono diversi, quello del Brasile, che forse è già stato citato, forse uno dei più apprezzati, perché di fatto è una grande rete dove tutti vanno a giocare. Qui si stanno già formando anche dei gruppi di appunto di sì, di, anche Laura di... ci ha detto, però lei ha detto che non è ancora salita sulla rete. Tu ci hai provato? Sì. Beh, tu che sei un montanaro, alpinista, sciatore, scalatore e tutto quello che ne consegue. Quanto. Infatti ci ho fatto una passeggiata sopra, eravamo ovviamente in 2000, poi scendi, hai il mal di mare per 8 minuti. No, ma, come dire, sì, perché certo, essendo una rete, però molto bello, anche perché sotto hai questi tratti di, come dire, di frammenti di foresta pluviale brasiliana, quindi decisamente molto, molto divertente. Abbiamo anche, e questo vi segnalo, è bello, è molto interessante anche il cluster, i cluster. Ah, ecco, i cluster, ne ho sentito molto parlare, sono delle zone in cui, diciamo, a tema. Assolutamente sì, le aree tematiche, cluster, appunto, questa parola prestata e presa dal mondo dell'osservazione delle stelle, ma insomma di fatto sì, i temi, quindi il caffè per esempio e il riso, entrambi molto belli anche per percorrere e per imparare, insomma, come le cose arrivino sulle nostre tavole. Nel cluster del caffè non a caso sono raccolti una serie di paesi che non hanno un padiglione proprio, l'esempio classico è l'Etiopia, quindi un grande produttore di caffè che racconta, tra l'altro è molto bello perché entri, insomma, c'è l'accoglienza del personale etiope, molto sorridente, molto simpatico, che racconta con orgoglio quella che per esempio per gli etiopi è la cerimonia del caffè, che è ben più che non offrire un caffè a qualcuno. E quindi i cluster sono un punto chiaramente di interesse. Quello del riso, come potete immaginare, è un altro mondo a sé, che da solo potrebbe fare quasi un Expo. Come ci sei andato in questi giorni tu a Expo? Rigorosamente in metropolitana. Perché parlavo prima con la nostra collega del Sole 24 Ore, Giovanna Mancini, che ieri ha provato la bicicletta. Ieri ha provato la bicicletta, ha detto che è fattibile, però il problema è che poi quando arrivi a Expo ci sono delle belle passerelle da fare dopo che hai parcheggiato, quindi nei giorni di sole come oggi ha detto è un po' dura, perché insomma il clima non è proprio freschissimo oggi a Milano. Tu metropolitana, allora ti devo chiedere delle cose pratiche che hanno chiesto a me, quindi prego. Io non essendoci ancora stata ti riporto le domande che mi vengono fatte. Si arriva in metropolitana, si arriva abbastanza vicino, ma poi chi non fosse un esperto camminatore, ci sono dei problemi di accessibilità? Bisogna essere... No, più che diciamo esperti, no, perché il percorso è molto chiaro, è difficile sbagliare, c'è una passerella larga circa... Ma è difficile sbagliare, io mi perdo anche in redazione, quindi potrei perdermi senza problemi. Però qui è francamente abbastanza difficile, perché il percorso è tracciato e poi perché comunque nel momento in cui esci dalla metropolitana fai circa 80 metri, hai le biglietterie, fai il primo controllo, a quel punto sei dentro uno spazio, per cui anche perderti, sì, però sei già perso all'interno dello spazio. Fai, diciamo, sorvoli con questa passerella la linea ferroviaria Milano-Torino, per intenderci, che quella è, e entri nello spazio espositivo. Certo, è una camminata, infatti ci siamo posti la questione per chi avesse bisogno di accesso. Quindi, per essere pratici, carrozzelle o situazioni di questo tipo, si arriva, certo ci sono gli ascensori per le parti diciamo alternative alle scale mobili e alle scale, e certo ci sono circa 300 metri di percorso, quindi assolutamente. Dopodiché ci sono i servizi invece su richiesta e gli altri accessi, perché noi stiamo parlando dell'ingresso sud-ovest, che è appunto quello della metropolitana, ma naturalmente ci sono tutti gli altri accessi, ce ne sono altri 5 in cui magari situazioni specifiche o semplicemente per chi preferisse venire in automobile ci può arrivare. Direi che in termini appunto di movimento, parcheggio, costi, la metropolitana, che poi è la stessa linea ferroviaria, vince. Quindi io dico metropolitana, ma magari penso anche ai treni, letteralmente, perché sai, il passante ferroviario poi si ricollega anche alla stazione di Ropero, che è diventata improvvisamente una grande stazione, insomma. No, che non solo, che adesso la stazione metropolitana si chiama Ro Fiera Expo, e io ogni volta che penso di aver sbagliato, perché prima si chiamava Ro Fiera Milano, io sento il nome diverso, dico oddio, ho sbagliato metropolitana per arrivare in redazione. No, perché è la stessa che passa sotto il sole 24 ore. Gigi, hai ragione. File io oggi. Infatti ho sbagliato definendola così, ma il nome corretto è quello che hai detto tu. No, l'ho imparato perché in questi giorni l'ho presa spesso e ogni volta dico ah, ho sbagliato. Gigi, file? Ci sono file in questi giorni, perché poi era il grande tema. Oggi sono andata a fare benzina. Perché riserva, e i ragazzi da cui faccio rifornimento mi hanno detto però magari noi andremo tra un po' di tempo, perché adesso ci saranno tantissime file. Com'è la situazione? Allora, io oggi posso farti essere testimone di due momenti. Quindi, primo, intorno alle 11, affluenza molto importante, file sì, ma stiamo parlando in ordine di 10 minuti. Ecco, poi intendiamoci, ci sono due generi di file, quelli che devono acquistare il biglietto e quelli che fanno semplicemente il controllo. Molti infatti arrivano col biglietto acquistato magari all'Expo Point in centro a Milano, piuttosto che sul web. Quindi poi sicuramente c'è la fila del controllo. Oggi, la seconda volta, io sono passato intorno alle 13, avrò impiegato 5 minuti, quindi una fila. Ci sono tantissimi punti di accesso, cioè la struttura è piuttosto muscolare sul fronte appunto dei controlli, quindi per adesso no. In questo momento ti posso anche dire, sono proprio alla vertice del Decumano, quindi vedo i 1600 metri, l'infilata piuttosto spettacolare, questo enorme spazio e brulicante di persone che in questo momento sono per lo più nella fase di uscita. Ah, ecco, quindi magari anche arrivare un po' più tardi nel pomeriggio, visto che è aperto fino a tardi, e poi così si vede anche l'albero della vita illuminato. Io non vedo l'ora di venire, ecco, perché mi stanno whatsappando un sacco di immagini bellissime. Ecco, su questo punto vale la pena ricordare che il biglietto serale scatta alle 19, quindi, e dura fino alle 23, quindi c'è tutto. Infatti oggi, come dire, vorrei anche vedere questa fase serale, perché sappiamo che hanno insistito molto sull'aspetto diciamo aperitivo, tanto per intenderci, che è stato esplicitato, cioè un luogo dove le persone potrebbero venire anche alla fine della giornata. Staremo a vedere. Ieri il tempo era impossibile, sembrava di essere in novembre, oggi è ritornato un tempo diciamo normale, anche piuttosto caldo, quindi staremo a vedere quanta risposta ci sarà a questa suggestione. Sì, devo dirti che oggi effettivamente il clima è praticamente estivo a Milano, per tutti quelli che ci ascoltano da fuori Milano, devo dire anche che oggi è giornata. Anche a Ro, anche nella località esotica di Ro. Esatto. Sono curiosa di sapere qualcosa del Padiglione Italia, perché era quello di cui poi parlavamo la scorsa settimana. Com'è? Tanto, e io non l'ho ancora esplorato perché effettivamente per organizzare la divisione dei compiti tra colleghi, come sai Laura si è occupata in maniera specifica di quello, per cui io sono andato rapidamente, ma siccome ci sono 5 piani di padiglione non ho diciamo ancora investito il mio tempo, lo farò, ma purtroppo non sono la persona più adatta. Da sotto è molto bello, molto imponente, chiaramente è il più grande di gran lunga, è su questa grande piazza dell'albero che hai appena citato, per cui è anche uno dei punti di riferimento di questa manifestazione. Sull'interno non ti so ancora dire. Vabbè, sull'interno lascio la suspense anche agli ascoltatori, ma soprattutto a me, che non vedo l'ora di avere un giorno libero per venire a perdermi. Ovviamente verrete a geolocalizzare, a recuperare all'interno di Expo. Gigi, grazie per essere stato con noi. Gigi Donelli, che appunto con Laura Bettini, che avete sentito prima, ormai si sono trasferiti a Rofiera, hanno salutato le loro famiglie, ormai sono stati adottati da Expo, non escono più dal di mondo. Lì. E soprattutto, Gigi, sappi che io ti chiederò tutti i menù di tutti i posti in cui vai a mangiare, perché poi li dobbiamo consigliare, e poi voglio andare anch'io a colpo sicuro e provare e le cose più buone. Mi stai dicendo che resterò qua per tutti i 6 mesi, insomma. Ma certo, hai una missione da compiere, Gigi. Non scherzare. Non scherzare. Qualcuno deve pure, è uno sporco lavoro, ma qualcuno deve pur farlo. Noi Gigi, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi. Grazie davvero tanto. A presto, a prestissimo. Il sabato del villaggio si collegherà spesso con te. È una minaccia. Grazie, Gigi. Ciao Marta, presto. Allora, noi abbiamo ancora solo qualche secondo, perché ormai è il momento di dare la linea a RadioTube. Però vi dico, per forza parleremo ancora di Expo. Non è proprio il rischio che smettiamo di farlo. Però abbiamo anche tanti altri argomenti, li scopriamo tra poco. Io vedo già Daniele Bellasio che secondo me sta giocando con Periscope, al di là dal vetro. Secondo me sta giocando con Periscope. Vabbè, lo sapremo tra poco, perché adesso è il momento del giornale radio.